Valancy vide lo zio Wellington e Olive che la guardavano inorriditi. E così lo zio Wellington aveva una macchina e sembrava aver trascorso la serata sua al Mista Whis con il cugino Herbert. A Valancy quasi sfuggì una sonora risata di fronte all'espressione che si dipinse sul suo volto quando la riconobbe, il pomposo, baffuto vecchio impostore. Potrebbe prestarmi la benzina sufficiente per arrivare a Deerwood? Stava chiedendo educatamente Barney, ma lo zio Wellington non gli prestava attenzione. Valancy, come sei arrivata fino a qui? Disse duramente. Per puro caso, oppure per mezzo della grazia divina, rispose Valancy. Con questo avanzo di galera alle 10 di sera? Disse lo zio Wellington. Valancy si volse verso Barney. La luna era sfuggita al suo drago e a quella luce gli occhi di lei erano colmi di diavoleria. Lei ha un avanzo di galera? Ha importanza? Disse Barney con gli occhi che ardevano di malizia. Non per me, ho chiesto soltanto per curiosità, continuò Valancy. Allora non glielo dirò, non soddisfo mai l'altrui curiosità. Si voltò verso lo zio Wellington e la sua voce mutò lievemente. Mister Sterling, le ho chiesto se potesse farmi avere un po' di benzina. Se può, tanto meglio. In caso contrario, le stiamo soltanto facendo perdere del tempo. Lo zio Wellington si trovava in un orribile dilemma. Dare della benzina a questa coppia di svergognati oppure non dargliela? Andarsene e abbandonarli là, nelle foreste del Mista Whis, probabilmente fino al mattino seguente. Beh, era meglio dargliela e fare in modo che si togliessero dalla circolazione prima che qualcun altro li vedesse. Ha un contenitore per la benzina? Borbottò burbero. Barney tirò fuori dalle DJ un recipiente da 2 galloni. I due uomini si diressero verso il serbatoio dell'auto degli Sterling e iniziarono a svitare il tappo. Valancy lanciò degli sguardi furtivi verso Olive da sopra il colletto del soprabito di Barney. Olive sedeva cupamente con lo sguardo fisso dinanzi a sé e un'espressione oltraggiata. Non aveva intenzione di prestare alcuna attenzione a Valancy. Olive aveva i suoi segreti motivi per sentirsi offesa. Cecil era stato a Deerwood di recente e, naturalmente, aveva sentito tutto riguardo a Valancy. Conveniva con loro che la sua mente fosse cambiata ed era eccessivamente ansioso di sapere da dove avesse ereditato quello squilibrio. Era un grosso problema per una famiglia, una cosa molto seria, si doveva pensare ai propri discendenti. L'ha ereditato dagli Wansparra, aveva detto Olive con fermezza. Non c'è niente del genere nel ramo degli Sterling, niente. Spero di no, certamente spero di no, aveva risposto Cecil dubbioso. Quanto poi ad andarsene fuori di casa per fare la serva, poiché è questa la cruda realtà, tua cugina. La povera Olive aveva compreso che cosa ciò implicasse. I pezzi grossi di Port Lawrence non erano soliti unirsi a famiglie i cui membri lavoravano fuori, tra virgolette. Valancy non poté resistere alla tentazione. Si protese in avanti. Olive, fa male? Olive abboccò freddamente. Fa male che cosa? Avere quell'aspetto. Per un istante Olive decise che non avrebbe dato ulteriore considerazione a Valancy. Poi però prevalse il senso del dovere, non doveva lasciarsi scappare l'opportunità. Dos, implorò sporgendosi a sua volta in avanti, perché non torni a casa questa sera? Valancy sbadigliò. Oh, sembri un disco rotto, disse, sul serio. Se tornerai, tutto sarà perdonato? Sì, disse Olive con serietà. Non sarebbe stato splendido se fosse riuscita a far tornare il figlio al prodigo. Non te lo rinfaceremo mai, Dos. Ci sono delle notti in cui non riesco a dormire da quando penso a te. E al fatto che mi sto godendo la vita? Disse Valancy ridendo. Dos, non riesco a credere che tu sia una cattiva persona. Ho sempre detto che non potevi essere cattiva. Non credo di poterlo essere, disse Valancy. Temo di essere irrimediabilmente corretta. Me ne sto seduta qui con Barney Snaith da 3 ore e lui non ha neppure tentato di baciarmi. Non mi sarebbe dispiaciuto se lo avesse fatto Olive. Valancy era ancora protesa in avanti, il cappellino con la rosa cremisi le ricadeva su un occhio. Il sorriso di Valancy. Che cosa era accaduto a Valancy? Lei sembrava non graziosa, Dos non poteva essere graziosa, ma provocante, affascinante, sì, era terribilmente provocante e affascinante. Olive si ritrasse. La sua dignità le impediva di dire oltre. Dopotutto, Valancy doveva essere sia matta che cattiva. Grazie, abbastanza, disse Barney da dietro l'auto. Molto obbligato, Mr. Sterling, 2 galloni, 70 centesimi, grazie. Lo zio Wellington salì confusamente e fiaccamente in auto. Desiderava cantarne 4 a Snaith, ma non trovò il coraggio. Chi poteva sapere che cosa avrebbe potuto fare quella creatura se provocata? Sicuramente aveva con sé delle armi da fuoco. Lo zio Wellington guardò indeciso verso Valency, ma Valency gli aveva voltato la schiena e stava osservando Barney che riempiva lo stomaco di Lady Jane con la benzina. Andiamocene da qui, disse Oliver risoluta. Non c'è motivo di aspettare. Lascia che ti racconti che cosa mi ha detto. Quella piccola civetta svergognata, proruppe lo zio Wellington. 22. La successiva notizia che gli Sterling appresero fu che Valency era stata vista in un cinema di Port Lawrence con Barney Snaith e al termine dello spettacolo a cena in un ristorante cinese. In effetti era proprio vero e nessuno più di lei ne era rimasto sbalordito. Barney si era presentato con Lady Jane durante un buio crepuscolo e senza tante cerimonie le aveva chiesto se volesse saltar su per fare un giro. Devo andare a Port Lawrence, vuole venire con me? I suoi occhi erano provocanti e una nota di sfida risuonava nella sua voce. Valency, che non nascondeva a se stessa il fatto che sarebbe andata con lui ovunque, saltò su senza indugio. Sfrecciarono in lungo e in largo per Deerwood. Mrs. Frederick e la cugina Stickles, che erano sulla veranda a prendere un po' d'aria, li videro volteggiare in una nuvola di polvere e cercarono conforto l'una negli occhi dell'altra. Valency, che in qualche oscura esistenza precedente aveva avuto paura delle auto, era senza cappello e la chioma le stava turbinando selvaggiamente attorno al volto. Avrebbe sicuramente preso la bronchite e sarebbe morta a casa di Roaring Able. Indossava un abito con lo scollo basso e aveva le braccia nude. Ah, quello Snaith! Era in maniche di camicia e fumava la pipa. Stavano guidando a una velocità di 40 a 60 miglia all'ora, affermò la cugina Stickles. Lady Jane sapeva dare il massimo quando voleva. Valency sventolò gaiamente la mano in direzione dei parenti, quanto a Mrs. Frederick avrebbe tanto desiderato potersi abbandonare a un attacco isterico. È per questo, domandò cupamente, che ho dovuto soffrire le pene della maternità. Non credo, disse la cugina Stickles con solennità, che le nostre preghiere rimarranno ancora inascoltate. Oh, chi proteggerà quella sfortunata ragazza quando io non ci sarò più? Gemette Mrs. Frederick. Valency, dal canto suo, si chiedeva se potessero essere veramente trascorse soltanto poche settimane da quando si era seduta nella veranda assieme a loro, detestando il ficus, assillata con domande fastidiose quanto le mosche, con il pensiero sempre rivolto alle apparenze. Sottomessa per il servizio di cucchiaini da tè della zia Wellington e per i soldi dello zio Benjamin, ridotta in povertà, spaventata da tutti, invidiosa di Olive, schiava delle più antiquate tradizioni, con niente in cui sperare e niente per cui aspettare. E adesso ogni giorno era una gioiosa avventura. Lady Jane divorò le 15 miglia che separavano Deerwood da Port Lawrence e attraversò Port Lawrence. Il modo in cui Barney superò la polizia stradale, beh, non fu irreprensibile. I fari iniziarono a scintillare come stelle nella pura aria crepuscolare che odorava di limone. Questa fu l'unica volta che a Valency la città piacque davvero e la velocità la deliziò oltre misura. Oh, era mai possibile che prima avesse paura delle auto? Si sentiva perfettamente felice mentre viaggiava al fianco di Barney. Non che si alludesse che ciò potesse significare qualcosa, sapeva perfettamente che Barney le aveva chiesto di andare sotto l'impulso del momento, un impulso nato da un sentimento di pietà nei suoi confronti e nei confronti dei suoi piccoli ardenti desideri. Dopo una notte insonne e un attacco cardiaco seguiti da una giornata di intenso lavoro, si sentiva stanca, si divertiva così poco. Lui le avrebbe offerto una gita, almeno per una volta. Inoltre Abel si trovava in cucina, in quello stadio di ubriacatura in cui dichiarava di non credere in Dio e stava iniziando a intonare canzoni licenziose. Era proprio il caso che lei si allontanasse per un po'. Barney conosceva il repertorio di Roaring Abel. Andarono al cinema. Valency non era mai stata al cinema. E poi, scoprendo di avere una gran fame, si recarono a mangiare del pollo fritto incredibilmente delizioso nel ristorante cinese. Dopodiché, sferragliarono di nuovo verso casa, lasciando dietro di sé una devastante scia di scandalo. Mrs. Frederick smise di punto in bianco di andare in chiesa, non poteva sopportare gli sguardi di commiserazione degli amici e le loro domande. E la cugina Stickles invece continuò ad andarvi tutte le domeniche. Diceva che avevano dato loro una croce da portare. 23. Durante una delle sue notti insonni, Sissy raccontò a Valency la sua misera storia. Erano sedute vicino alla finestra aperta. Quella notte Sissy non riusciva a respirare se rimaneva sdraiata. Una ignobile luna gibbosa aleggiava sulle boscose colline e sotto la sua luce spettrale Sissy appariva fragile, bella e incredibilmente giovane. Una bambina. Non sembrava possibile che avesse sopportato tutta la passione, il dolore e la vergogna della sua storia. Lui alloggiava all'hotel dall'altra parte del lago. Aveva l'abitudine di venire di notte con la sua canoa. Ci incontravamo tra i pini, giù sulla spiaggia. Era un giovane studente del college. Suo padre era un ricco uomo di Toronto. Oh, Valency, io non volevo fare niente di male, davvero, ma lo amavo così tanto. Lo amo ancora, lo amerò sempre. E c'erano alcune cose che non sapevo, che non capivo. Poi arrivò suo padre, lo portò via e dopo un po' scoprì. Oh, Valency, ero così spaventata, non sapevo cosa fare, gli scrissi e lui venne, lui disse che mi avrebbe sposata, Valency. E perché? E perché? Oh, Valency, non mi amava più, lo compresi al primo sguardo. Lui mi stava offrendo di sposarlo soltanto perché pensava che avrebbe dovuto, perché gli dispiaceva per me. Non era un cattivo ragazzo, ma era così giovane. E che cos'ero io perché lui dovesse continuare ad amarmi? Ah, non affannarti a scusarlo, disse Valency un po' bruscamente. Così decidesti di non sposarlo? Non potevo. Non dopo che ebbi la certezza che lui non mi amava più, in qualche modo. Non so spiegarlo, sembrava un'alternativa peggiore rispetto all'altra. Lui discusse per un po', ma poi se ne andò. Credi che io abbia fatto bene, Valency? Certo che lo credo, hai fatto bene, ma lui. Oh, non biasimarlo, cara, ti prego, non farlo. Non parliamo di lui, non ce n'è alcun bisogno. Volevo dirti cosa era accaduto. Non volevo che tu mi giudicassi male. Non l'ho mai fatto. Sì. Lo so, ne ho avuto la certezza nel momento stesso in cui sei arrivata. Oh, Valency, cosa non sei stata per me, non potrò mai dirtelo, ma Dio ti ricompenserà per questo. So che lo farà. Con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi. Sissy si singhiozzò per alcuni minuti tra le braccia di Valency, poi si asciugò gli occhi. Bene, è più o meno tutto. Tornai a casa. Non ero proprio infelice, avrei dovuto esserlo, ma non lo ero. Papà non fu duro con me. E il mio piccolino era così dolce, Valency, con degli occhi blu talmente adorabili e dei piccoli riccioli oro chiaro come fili di seta sulla testolina e delle minuscole mani con le fossette. Non facevo che mordergli dappertutto la faccina liscia come il raso, delicatamente, in modo da non fargli male, sai? Lo so. Disse Valency irrigidendosi. Lo so, una donna lo sa sempre e sogna. E inoltre lui era tutto mio, nessun altro aveva alcun diritto su di lui. Quando morì. Oh, Valency, pensavo di dover morire anch'io. Non riuscivo a capire come si potesse sopportare un tale dolore e continuare a vivere, vedere i suoi cari piccoli occhi e sapere che non li avrebbe aperti mai più. Sentire la mancanza del suo corpicino rannicchiato contro il mio, pensarlo addormentato da solo, freddo, con il visino sotto la dura e gelata terra. Il primo anno è stato davvero terribile. Dopo è andata un po' meglio, giacché non si continua a pensare questo stesso giorno dello scorso anno. Ma fui così felice quando scoprii che stavo per morire. Ah. Chi potrebbe mai sopportare la vita se non ci fosse la speranza della morte? Mormorò dolcemente Valency. Si trattava naturalmente di una citazione di un libro di John Foster. Sono felice di averti raccontato tutto. Sono sospirò Sissi, volevo che tu sapessi. Alcune notti dopo Sissi morì. Roaring Abel era via. Quando Valen si notò il cambiamento sul volto di Sissi, avrebbe voluto chiamare il dottore, ma Sissi non glielo permise. Valency, perché mai dovresti? Non c'è niente che lui possa fare per me. Sapevo già da diversi giorni che questo momento era vicino. Lasciami morire in pace, cara. Mi basta tenerti la mano. Oh, sono così felice che tu sia qui. Di' addio a papà da parte mia. È sempre stato buono con me. E Barney, in qualche modo penso che Barney. Ma un attacco di tosse la interruppe e la rese esausta. Quando l'eccesso si placò, lei si addormentò, sempre stringendo la mano di Valency. Valency restò lì, seduta, in silenzio. Non era spaventata e neppure dispiaciuta. All'alba Sissi morì. Aprì gli occhi e guardò oltre Valency, verso qualcosa che la fece improvvisamente sorridere di gioia. E sorridendo spirò. Valency incrociò le mani di Sissi sul suo petto e si diresse verso la finestra aperta. Nel cielo, a oriente, tra le fiamme dell'alba, stava sospesa una vecchia luna, sottile e graziosa, come una luna nuova. Valency non aveva mai visto una vecchia, vecchia luna prima di allora. La osservò impallidire e scomparire finché impallidì e scomparve del tutto nell'approssimarsi del giorno. Nelle lande una piccola pozza riluceva come un grosso giglio dorato. Ma a Valency il mondo sembrò d'un tratto un luogo più freddo. Per una volta ancora nessuno aveva più bisogno di lei. Non era assolutamente dispiaciuta per Cecilia. Le dispiaceva soltanto che avesse tanto sofferto quando era in vita. Ma nessuno avrebbe più potuto ferirla. Valency aveva sempre pensato che la morte fosse spaventosa, ma Sissi era spirata così quietamente, così felicemente, e proprio alla fine qualcosa l'aveva ricompensata per tutto. Adesso giaceva là, nel suo bianco riposo, l'aspetto simile a quello di una bimba. Una bellissima bimba. Tutte le tracce della vergogna e del dolore erano scomparse. Roaring Abel guidò come un matto a giustificazione della propria nomea. Roaring significa ruggente in inglese. Valency gli andò incontro e gli riferì l'accaduto. Lo shock lo rese immediatamente sobrio. Si afflosciò sul sedile del calesse, la grande testa abbassata. Sissi, morta. Sissi, morta, disse con aria assente. Non credevo sarebbe accaduto così presto. Morta, morta. Aveva l'abitudine di corrermi incontro con una piccola rosa bianca tra i capelli. Sissi era una graziosa ragazzina, una brava ragazzina. È sempre stata una brava ragazzina, disse Valency. 24. Valency preparò personalmente Sissi per il funerale. Nessuna mano che non fosse la sua avrebbe dovuto toccare quel corpicino pietoso e devastato. Il giorno delle esequie. La casa era immacolata. Barney Snaith non era presente. I giorni precedenti il funerale aveva fatto tutto quanto poteva per aiutare Valency. Aveva avvolto la pallida Cecilia in un sudario di rose bianche colte dal giardino e poi era tornato nell'isola. Ma tutti gli altri erano presenti. Vennero tutti gli abitanti di Deerwood e della landa desolata e alla fine avevano splendidamente perdonato. Sì. Mr. Bradley celebrò un bel funerale. Valency avrebbe desiderato il suo vecchio libero metodista, ma Roaring Abel si mostrò ostinato. Era un presbiteriano e soltanto un parroco presbiteriano avrebbe potuto seppellire sua figlia. Mr. Bradley fu molto delicato, evitò tutti gli argomenti di dubbia interpretazione e fu evidente che sperava per il meglio. Sei rispettabili cittadini di Deerwood trasportarono Cecilia fino alla tomba nel decoroso cimitero di Deerwood. Tra questi c'era lo zio Wellington. Tutti gli Sterling, uomini e donne, presenziarono al funerale. Avevano tenuto una riunione sull'argomento. Certamente, ora che Sissi era morta, Valency sarebbe tornata a casa. Era evidente che non poteva restare lì con Roaring Abel. Per tale motivo, la cosa più saggia, aveva decretato lo zio James, era di recarsi alle esequie, legittimare per così dire l'intera questione, mostrare a Deerwood che Valency aveva veramente compiuto un atto lodevole nel prendersi cura della povera Cecilia Gay e che la sua famiglia l'aveva appoggiata. La morte, miracolosa entità, d'un tratto aveva reso la cosa piuttosto rispettabile. Se Valency avesse fatto ritorno a casa, mentre sull'opinione pubblica ancora agiva il senso del decoro, tutto poteva sistemarsi per il meglio. La società stava improvvisamente dimenticando tutte le cattive azioni di Cecilia e rammentava invece quale cosina graziosa e modesta fosse stata e senza mamma, sapete, senza mamma. Era il momento in cui predominava l'emotività, come asserì lo zio James. E così gli Sterling andarono al funerale. Persino la neurite della cugina Gladys le consentì di andare. La cugina Stiggles, con il cappellino che le grondava sull'intero volto, piangeva con una tale afflizione da far pensare che Sissi fosse stata per lei la creatura più vicina e più cara al mondo. I funerali facevano sempre rivivere alla cugina Stiggles il suo triste lutto e lo zio Wellington portava la bara. Valency, pallida, con lo sguardo sottomesso, gli occhi allungati, arrossati per il pianto e con indosso il vestito color tabacco, si muoveva quietamente, faceva accomodare le persone, si consultava a bassa voce con il parroco e l'impresario delle pompe funebri, dirigeva i sofferenti nella sala, dando di sé un'impressione decorosa, corretta e talmente in linea con lo stile Sterling da far entrare la sua famiglia in uno stato di grazia. Questa non era, non poteva essere la ragazza che era rimasta seduta per tutta la notte nella boscaglia con Barney Snaith, colei che era andata sfrecciando a capo scoperto per tutta Deerwood e Port Lawrence. Questa era la Valency che loro conoscevano, veramente sorprendentemente capace ed efficiente. Forse era sempre stata un po' troppo sottomessa. Amelia era in effetti assai severa e lei non aveva avuto l'opportunità di mostrare il proprio valore. Così la pensarono gli Sterling e Edward Beck della strada di Port Lawrence, un vedovo con una numerosa famiglia che cominciava a guardarsi intorno, notò Valency e pensò che avrebbe potuto essere perfetta come seconda moglie. Non era bella, ma un vedovo di 50 anni, si disse Mr. Beck assai ragionevolmente, non poteva aspettarsi la perfezione. Tutto considerato, sembrava che le possibilità di matrimonio per Valency non fossero mai state tanto luminose come lo furono al funerale di Cecilia. Che cosa avrebbero pensato gli Sterling e Edward Beck se avessero saputo che cosa realmente passava per la mente di Valency? Dovrà essere lasciato all'immaginazione. Valency detestava quel funerale, detestava le persone che erano venute per fissare il loro sguardo sul bianco volto marmoreo di Cecily, detestava la compiacenza, detestava quei trascinanti canti malinconici, odiava le caute banalità enunciate da Mr. Bradley. Oh, se avesse potuto fare alla sua assurda maniera, non ci sarebbe stato nessun funerale. Avrebbe interamente ricoperto Sissi con dei fiori, sottraendola agli sguardi curiosi, e l'avrebbe sepolta sotto i pini, nel cimitero erboso della chiesetta della landa desolata, accanto al piccolino senza nome, con qualche preghiera gentile da parte del vecchio ministro dei liberi metodisti. Ricordava che Sissi aveva detto una volta: desidererei poter essere seppellita nel cuore della foresta, dove nessuno potrebbe mai venire a dire Sissi Gay fu sepolta qui, per poi iniziare a raccontare la mia miserabile storia. Ma questo, comunque, sarebbe presto finito. Valency sapeva esattamente, anche se gli Sterling e Edward Beck non erano a conoscenza, che cosa avrebbe fatto allora. La notte precedente era restata sveglia per tutto il tempo e si era finalmente decisa. Quando la processione del funerale ebbe lasciato la casa, Mrs. Frederick andò a cercare Valency in cucina. «Figlia mia!» disse con voce tremante. «Adesso tornerai a casa?» «Casa?» disse Valency sovrappensiero. Si stava infilando un grembiule e stava calcolando quanto tè doveva mettere a bollire per la cena. Ci sarebbero stati diversi ospiti della landa desolata, parenti alla lontana dei gay che si erano scordati di loro per anni e anni. Ed era così stanca che avrebbe desiderato poter prendere in prestito un paio di gambe al gatto. Sì, casa, disse Mrs. Frederick con un tocco di asperità. Suppongo non penserai di restartene qui adesso da sola con Roaring Gable? Oh no, non starò qui, disse Valency. Naturalmente dovrò trattenermi per un paio di giorni per dare una sistemata generale alla casa, ma questo è tutto. Scusami, mamma, ti spiace? Ho così tante cose da fare. Tutte quelle persone della landa desolata saranno qui per cena. Mrs. Frederick si ritirò con evidente sollievo e gli Sterling tornarono a casa con il cuore più leggero. Ci limiteremo a trattarla come se nulla fosse accaduto quando tornerà a casa, disse lo zio Benjamin. È questa la soluzione migliore, come se niente fosse accaduto. 25. La sera successiva al giorno del funerale, Roaring Abel uscì a far baldoria. Era rimasto sobrio per 4 giorni interi e non ce la faceva più. Prima che se ne andasse, Valency lo informò che lo avrebbe lasciato l'indomani. Roaring Abel ne fu addolorato e non mancò di dirglielo. Una cugina alla lontana della landa desolata sarebbe venuta a prendersi cura della casa abbastanza spontaneamente, adesso che non c'era più una ragazza ammalata da assistere, ma Abel non si faceva alcuna illusione a riguardo. Non sarà come con te, ragazza mia. Beh, ti sono debitore, mi hai tirato fuori da un brutto impiccio e non lo scorderò. Inoltre non dimenticherò quello che hai fatto per Sissi. Sono tuo amico. E se mai desidererai veder sculacciare o mettere in un angolino uno qualsiasi degli Sterling, fammelo sapere. Andrò a farmi un goccetto, buon Dio. Ho la gola secca. Non credo sarò di ritorno prima di domani notte, quindi se tornerai a casa domani, meglio salutarsi adesso. È possibile che io vada a casa domani, disse Valency, ma non ho intenzione di tornare a Deerwood. Non hai intenzione di tornare? Troverà la chiave sul gancio della rimessa, lo interruppe Valency gentilmente ma con decisione. Il cane sarà nel fienile e la gatta nella cantina. Non dimentichi di darle da mangiare finché non sarà arrivata sua cugina. La dispensa è piena, inoltre oggi ho fatto il pane e le focacce. Arrivederci, Mr. Gay. Lei è stato molto gentile con me, gliene sono grata. Beh, siamo stati dannatamente bene insieme, ecco la verità. Disse Roaring Abel. Sei la cosina più spassosa al mondo, il tuo mignolo vale da solo quanto l'intero clan degli Sterling. Arrivederci e buona fortuna. Valency uscì in giardino. Le tremavano un po' le gambe, ma per il resto si sentiva e si mostrava tranquilla. Teneva stretto qualcosa nel palmo della mano. Sul giardino aleggiava la magia del caldo e profumato crepuscolo del mese di giugno. Alcune stelle brillavano e i petirossi cinguettavano attraverso il vellutato silenzio delle lande. Valency si soffermò vicino al cancello in attesa. Sarebbe venuto? In caso contrario. Oh no, stava arrivando. Valency udì Lady Jane Grey in lontananza, nel bosco. Il respiro le si fece un po' più affannoso, più vicino e ancora più vicino, e adesso. Poteva vedere Lady Jane saltellare giù per la stradina, più vicina, più vicina. Eccolo arrivato. Saltò fuori dall'auto e mentre la guardava si protese verso il cancello. Sta andando a casa, Miss Sterling? Non saprei ancora, disse lentamente Valency. La decisione era presa, senza dubbio alcuno, ma il momento era davvero terribile. Ho pensato di fare un salto qua giù per vedere se c'era qualcosa che io potessi fare per lei, aggiunse Barney. Valency prese la palla al balzo. Sì, c'è qualcosa che lei può fare per me, disse con calma e chiarezza. Vuole sposarmi? Per un istante Barney rimase in silenzio. Sul suo volto non era dipinta alcuna espressione particolare, poi fece una strana risata. Ecco qua, sapevo che la fortuna mi aspettava dietro l'angolo. Oggi tutto sembrava presagirlo. Un momento, Valency sollevò la mano. Dico sul serio. Ma devo riprendere fiato dopo averle fatto quella domanda. Naturalmente, con l'educazione che ho ricevuto, capisco perfettamente bene come questa sia una delle cose che una signora non dovrebbe fare. Ma perché? Per quale motivo? Per due ragioni. Valency ansimava ancora un po', ma guardò Barney dritto negli occhi, mentre tutti gli Sterling estinti si rigiravano nella tomba e quelli ancora in vita non facevano altrettanto solamente perché non sapevano che Valency in quel momento stesse proponendo un matrimonio legale al famoso Barney Snaith. La prima ragione è che Valency tentò di dire la amo, ma non ci riuscì. Dovette quindi trovare rifugio in una finta impertinenza. Io sono pazza di lei. La seconda è questa, gli porse la lettera del dottor Trent. Barney l'aprì con l'aria di colui che è grato di trovare qualcosa di innocuo e sano da fare. Il suo volto mutò mentre la leggeva. Comprese, forse più di quanto Valency desiderasse. È certa che non ci sia niente da fare per lei? Valency non fraintese la domanda. Sì, lo sono. Conosce la reputazione del dottor Trent in fatto di patologie cardiache. Non mi resta molto da vivere, forse soltanto qualche mese, qualche settimana. Oh, voglio vivere il tempo che mi resta. Non posso tornare a Deerwood. Sa che cos'era la mia vita in quel luogo e... Ci riuscì questa volta. Io l'amo. Voglio trascorrere il resto della mia vita con lei. Non c'è altro.